Hashtag Autotrasporti. Buonasera da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì sera con Autotrasporti, il programma che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Un programma che racconta un mondo in perenne movimento, un mondo che trasporta merci e trania una fetta importante dell'economia. 125 sono i chilometri in più da percorrere tra Palermo e Catania dopo il crollo del viadotto autostradale. Da settimane la Sicilia è in emergenza, si allunga il percorso, si dilatano i tempi di percorrenza con ricadute pesantissime per la vita e l'economia della regione. Il caso Sicilia è tra i temi più stringenti al centro dell'attenzione del mondo dell'autotrasporto, insieme alle nuove norme sulle revisioni annuali dei mezzi e i ritardi nell'erogazione dei fondi destinati al comparto dalla legge di stabilità. I rappresentanti di categoria da settimane chiedono una convocazione al Ministero e per sollecitarla il presidente di Unatras ha scritto al ministro Graziano Del Rio. Nel caso l'incontro dovesse ulteriormente slittare, le associazioni sono pronte a scendere sul piede di guerra. Il presidente di Unatras, Gene Dani, al microfono di Massimo De Donato. In particolare la questione delle risorse che non sono ancora state rese disponibili, la questione delle motorizzazioni, quindi il passaggio della tenuta dell'albo dalle province alle motorizzazioni che sta bloccando l'attività dell'autotrasporto presso le province e più anche la questione della concorrenza estera, gli altri stati stanno difendendo diciamo tutti i loro paesi fuori che l'Italia, vediamo la Spagna, certo. Vediamo la Francia, vediamo anche la Germania. Ecco, entriamo un po' nello specifico, cominciamo proprio dalle risorse, parliamo di 250 milioni che dovrebbero essere investiti nel settore, a che punto siamo con questa distribuzione? Nello specifico i 250 milioni dovevano essere già state firmate dal Ministro dell'Economia, ma ci risulta che non sono ancora state firmate, quindi queste qui vanno a coprire le spese non documentate e deducibili, i vari capitoli di spesa che tutti gli anni l'autotrasporto ha come monte di risorse economiche da parte del governo. Poi c'è il passaggio di competenze, anche questo delicatissimo, dalle province alle motorizzazioni proprio per la gestione degli albi, anche questo è un tema importante, però anche qui c'è una situazione di stallo, mi sembra di capire. Sì, è stato fatto un DPCM che sta procedendo in gennaio, però non è previsto il passaggio del personale dalle province alle motorizzazioni, già le motorizzazioni hanno delle carenze di personale, quindi ci troviamo in grandi difficoltà perché addirittura si sta subendo un antagonismo fra le province e le motorizzazioni, anche perché la motorizzazione dice come faccio a gestire l'albo senza personale, quindi automaticamente certo. Non è previsto questo passaggio di personale. Si sta valutando come portare avanti questa partita difficile, legata anche al fatto che le motorizzazioni non sono neanche quasi più in grado di fare le revisioni dei veicoli. Su tutto poi c'è un problema che sembra essere territoriale ma in realtà è nazionale, che è quello della Sicilia, un problema che ha radici antiche, che è stato in qualche modo aggravato e che è esploso letteralmente con il problema infrastrutturale legato alle autostrade siciliane. Qual è la situazione in Sicilia e quali sono i rischi per le prossime settimane? La situazione siciliana è una situazione a poco a dire drastica, già colpita in questa crisi che ha portato a una riduzione del meno 15% di aziende, con una riduzione di 11.430 dipendenti, questi numeri sono dello studio di Confartigianato Imprese. E quindi automaticamente adesso col blocco, col crollo del ponte dell'autostrada, i nostri veicoli siciliani sono costretti a fare, oserei dire, quasi delle mulattiere. Quindi considerando che la Sicilia è di base ha di prodotti ortofrutticoli e tutto, rischiano di perdere i trasporti, i nostri trasportatori, soprattutto di mandare al macero tutti questi prodotti ortofrutticoli se non si interviene in modo diretto e importante. E sui temi al centro dell'attenzione del mondo dell'autotrasporto abbiamo sentito Massimo Bagnoli, presidente nazionale di FIAP, per il quale il rispetto della legalità è tra le priorità. Assolutamente sì, è centrale per il mondo dell'autotrasporto Perché in questo momento ci troviamo nell'antipatica situazione dove le aziende che non rispettano le regole sono più competitive delle aziende che le regole le rispettano, quindi è ovvio che è sbagliato come sistema. Noi stiamo cercando, in collaborazione anche con l'albo degli autotrasportatori, che sta cercando di mettere assieme tutte le banche dati per poter far sì che comunque ci sia l'immediatezza nel vedere se l'azienda è regolare o meno, di poter avere entro giugno quello che finalmente dovrebbe essere un pochettino il passaporto delle aziende regolari. Mi fa un esempio dell'illegalità? L'illegalità sono quelle aziende che magari non versando IVA e contributi, quindi bypassando tutta la parte fiscale, ottengono dei vantaggi sul prezzo che poi possono andare a pretendere dal cliente. Chiaramente non versando IVA, non versando contributi, hanno una tariffa più appetibile rispetto a chi invece questi oneri intende pagarli, perché poi si fanno danni sociali di cui poi tutta la comunità ne avrà lo svantaggio, insomma. Ecco, allargando l'orizzonte di valutazione del vostro mondo, c'è anche un problema chiaramente di reti, di infrastrutture. Il caso della Sicilia lo testimonia in maniera inequivocabile. Sì, ecco, questo è un altro problema. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, anche se comunque oramai le infrastrutture hanno talmente preso il sopravvento che i trasporti sono spariti come interesse nazionale. In fondo il denaro corre sulle infrastrutture, non corre sul trasporto, però ci stiamo rendendo conto che le infrastrutture che dovrebbero essere funzionali all'autotrasporto oggi stanno mostrando il fianco a tutte le porcherie che sono state fatte nella realizzazione di queste infrastrutture, che anche queste poi sono a svantaggio dell'autotrasporto, senza doversi dimenticare che l'autotrasporto in Italia corre per l'85-90% comunque ancora su strada. E l'intermodalità? L'intermodalità in un paese come questo sarebbe l'asso di briscola, soprattutto perché siamo una penisola lunga attraversata dagli Appennini, quindi difficoltosa da percorrere con i camion. L'intermodalità però purtroppo ha la rigidità di chi non vuol vedere le necessità e i bisogni delle imprese, quindi le imprese hanno bisogno della flessibilità dell'autotrasporto, perché comunque la ferrovia non è vicina alle imprese. Magari cerca di catturare del traffico, appropriarsi di traffico, che però non riesce a fare perché oggi il mondo cammina, dovrebbe camminare anche la ferrovia, e nell'andare incontro ai bisogni delle aziende, delle imprese. Il mondo cammina, c'è però sempre un pregiudizio sui camion inquinanti, rumorosi. Noi stessi abbiamo questo pregiudizio, ne siamo certi. Tra l'altro, riducendo il mondo dell'autotrasporto quasi alla povertà assoluta come è in questo momento, i camion saranno sempre più inquinanti. Non c'è un finanziamento che aiuti a cambiare i mezzi per poterli aggiornare, nessuno va in aiuto, mentre magari nel mondo imprenditoriale agevolazioni ce ne sono, nell'autotrasporto no. E ovviamente l'autotrasportatore deve comunque continuare a fare il suo mestiere, cerca di farlo nel migliore dei modi, ma però ci hanno escluso anche la possibilità di poter cambiare i mezzi, quindi gli Euro 6 sono una chimera, ma purtroppo sono una chimera gli Euro 5 e molto spesso anche gli Euro 4, e sappiamo che sono inquinanti, sappiamo che ci possono essere tanti modi per fare le cose migliori, ma non dimentichiamoci che noi siamo comunque inseriti in un tessuto economico che stiamo subendo, non è che lo stiamo governando noi. Per la rubrica sulla storia di un prodotto, dal momento in cui viene caricato fino a quello della consegna, questa settimana parliamo di inchiostro. Angelo Sirtoli di Monza ci accompagna in questo viaggio. Trasportare inchiostro vuol dire trasportare un prodotto di nicchia, un prodotto che non è commercializzato in grandi quantità, è prodotto da poche aziende produttrici, è destinato alla stampa che va dai giornali quotidiani alle riviste, ai dépliants semplicemente, quindi è prodotto da pochi, prodotto in quantità non enormi, ma che poi passa nelle mani di tutta la gente. Tenga conto che viene trasportato in sfuso a una temperatura, cioè caldo, perché è un prodotto che va tenuto al caldo,